Ad alta voce, edizione 20 anni. Tommaso Ragno legge Panchine di Beppe Sebaste. Scandali, evasioni. Il 4 ottobre 2007 avevo letto sul giornale questa notizia. Milano evade dalla panchina. Scontava gli arresti domiciliari nel parco, colpevole del furto in un supermercato e imprigionato in un giardino pubblico, ora è a San Vittore. La polizia lo sorprende lontano dalla sua cella. Processo per direttissima rinviato. L'uomo in questione si chiama Antonio Capone, 41enne di Avellino. La sua cella, appresi, era una panchina, anzi l'unica panchina di Piazzale Aquileia a Milano, da cui non poteva muoversi dalle 7 del mattino alle 9 di sera. Non solo si era mosso da lì, ma il reato che aveva commesso questa volta era stato rubare una maglietta e un paio di calze in un supermercato vicino alla panchina. Aveva freddo. Ignoro quale fosse il reato originario per cui doveva scontare la pena e le circostanze che spinsero il giudice a decidere che la scontasse su quella panchina eletta a domicilio. Dato che la panchina è posta nelle immediate vicinanze del carcere di San Vittore, si può ipotizzare che per Capone fosse una questione di orientamento, di familiarità e prossimità a un luogo che conosceva bene, più che per via di una facilità di controllo da parte del personale penitenziario. In effetti, il reo era stato perso di vista e quindi accusato di essere fuggito e ha dovuto andare in una cella vera, al chiuso. La cronaca parlava di un processo per direttissima che si sarebbe dovuto svolgere nell'ottobre del 2007, ma poi aggiungeva che il giudice aveva deciso di rinviare il dibattimento di una settimana per accogliere la richiesta di patteggiamento presentata dall'avvocato dell'evaso. Non ho più saputo niente. E la mia curiosità, se si possa evadere anche da uno spazio aperto, è restata, se così posso dire, inevasa. Questa storia vera mi ha fatto venire in mente un personaggio di Italo Calvino, Marco Valdo, che in un capitolo delle sue avventure, La villeggiatura in panchina, 1956, parla appunto di una panchina che vorrebbe eleggere a proprio letto. Andando ogni mattino al suo lavoro, Marco Valdo passava sotto il verde di una piazza alberata, un quadrato di giardino pubblico ritagliato in mezzo a quattro vie. E c'era, in un angolo della piazza, sotto una cupola di ippocastani, una panchina appartata e seminascosta, e Marco Valdo l'aveva prescelta come sua. È estate e sogna di svegliarsi sotto il cinguettare dei passeri che a lui sembrano usignoli piuttosto che al suono della sveglia e allo strillo dei figli neonati e della moglie. Pregusta perfino il contatto di quegli assi di legno che immagina morbidi e accoglienti e insomma sognava la panchina come un senza tetto può sognare il letto d'una reggia. Il resto della novella assomiglia a un film di Jacques Tati, una serie di gag di un antieroe nevrotico che si scontra prima col fatto che la panchina è occupata da una coppia più nevrotica di lui, che non smette di litigare in modo inconcludente, poi è disturbato dalle luci del semaforo, poi dal rumore degli operai che riparano le rotaie del tram, dalla fontana che zampilla, dal camion della spazzatura, dal vigile urbano e così via. Che io sappia, le prime apparizioni delle panchine nei romanzi italiani avevano un sapore verista o scapigliato da Alfredo Oriani, dove la panchina è addirittura ignobile in quartetto, ma già più contemplativa né La bicicletta, alberga delle novelle rusticane, Malaria, dal Demetrio Pianelli di Emilio De Marchi agli accenti convulsi e disperati di Tre croci di Federico Tozzi. Solo la coscienza di Zeno, di Svevo, non a caso nel capitolo intitolato Moglie e amante, fa un uso per noi riconoscibile della panchina, luogo appartato dove sedersi e pensare agli affari propri. Alberto Moravia, in un romanzo del 1988 dal titolo Il viaggio a Roma, descrive una panchina senz'altro autobiografica di Villa Balestra, grande prato rettangolare, nel quartiere Parioli. Il protagonista ha appuntamento con una specie di donna schermo. Ho alzato gli occhi verso il cielo. I fogliami rotondi degli smilzi, altissimi pini, lassù, sullo sfondo dell'immensa deriva di cirri dello Scirocco, non palpitavano e svariavano al vento come tutti gli altri giorni, ma apparivano opachi e immobili. I cipressi neri e ritti stavano fermi come sentinelle ai quattro angoli del prato. Al di là del parapetto, il panorama dei tetti e delle terrazze di Roma si stendeva senza luce, velato dall'afa, fino alla remota minuscola cupola di San Pietro. La donna è già seduta sulla panchina, una figura femminile seduta tutta sola con un libro in mano su un banco a ridosso della muraglia di cinta. L'ho riconosciuta dalla gonna pieghettata. Condurrà con lei sulla panchina un dialogo ambiguo, fatto anche di ginocchia che si toccano. Non conosco Villa Balestra, ma ci sono un sacco di ville a Roma, cioè di parchi, bellissimi e pieni di panchine. I miei preferiti sono il giardino degli aranci sull'Aventino e il piccolo giardino sopraelevato del cimitero degli inglesi, detto cimitero dei poeti o cimitero acattolico, uno dei più bei luoghi di Roma. Poi c'è l'orto botanico, tra il Gianicolo e Trastevere, dove si paga un biglietto e si viaggia in una geografia botanica e silenziosa. Mi piace sedermi sulle panchine tra le piante del Giappone e quelle del Mediterraneo, o vicino a una fontana circolare frequentata da dei gatti selvaggi. È un luogo appartato in pieno centro che sa far dimenticare la città. Stefania mi ha raccontato che all'orto botanico, dove andava tutte le mattine quando suo figlio era piccolo, si sedeva su una panchina vicino a una fontana, sotto un albero strano, e mentre il bambino, disteso nella carrozzina, guardava incantato le foglie, un pettirosso si posava sulla panchina di fianco a lei. Tempo fa c'era una coppia che faceva l'amore su una panchina, non nascosti, ma addirittura in rilievo, su un'altura dove ci sono decine di rose. È una panchina solitaria, in effetti, ma mi sembrarono naturali, come se fossero usciti dalla scena del sesso collettivo di Zabriskie Point. Era poco prima della chiusura del giardino e lo facevano con tanta innocente intensità che, quando lo vidi, attaccai il bottone col custode, bloccandolo nel suo giro di ricognizione a protezione ideale della coppia. Non sono più i tempi della canzone di Georges Brassens sugli innamorati delle panchine, Les amoureux des bancs publics, che ironizzava sullo sdegno dei passanti scandalizzati dai loro baci, ma non si sa mai. E del resto sbaglio sempre le mie diagnosi sociali. Ho sempre simpatizzato con chi serenamente dà scandalo, anche perché spesso sono stato io a suscitarlo. Il cimitero acattolico è un'altra oasi. Sopraelevato rispetto alla città, sembra addirittura un'isola, e dai suoi prati si vede emergere dal basso la surreale piramide, stando seduti su una panchina a fianco della tomba di John Keats. Ma anche passeggiare nei sentieri tra le tombe è piacevole, e nel silenzio è come visitare un museo, e provo sempre un'emozione nel trovarmi davanti al semplice rettangolo della tomba di Antonio Gramsci. Tra le tante c'è la tomba di Gregory Corso, il poeta che incarnava da solo, diceva Ginsberg, tutta la Beat Generation. Gregory Corso, l'autore di The Bomb, poesia scritta a forma di fungo atomico, passò dal riformatorio e poi dal carcere, dove entrò scassinatore e uscì poeta, innamorato di Marlowe e di Shelley. Della prigione scrisse che a volte anche l'inferno è un buon posto, se serve a dimostrare con la sua esistenza che deve esistere anche il suo contrario, cioè il paradiso. E cos'è questo paradiso? La poesia. Corso restò comunque un alieno, randagio e ribelle, vera incarnazione dello straniero. Il poeta è spesso come l'ebreo. Non chi arriva oggi e riparte domani come il turista, ma chi arriva oggi e domani non parte e resta ad aggiungere una nuova modalità di relazione con gli altri. Gregory Corso, straniero, lo fu ovunque e nei primi anni Ottanta soprattutto a Roma, tra Campo dei Fiori e il Bit 72, il Folks Studio di via Gaetano Sacchi e il Music Inn, il bar di San Callisto e la vineria del Tedesco in via del Governo Vecchio, e in tutti i posti in cui si può testimoniare di averlo visto parlare, ridere, bivaccare. Dove è mai casa? 1987 non è solo il titolo di una sua raccolta di poesie, ma la frase che immancabilmente, a una certa ora della notte, Gregory Corso ripeteva guardandosi intorno, quando chi aveva condiviso tempo con lui si congedava per tornare a casa. Gregory Corso non aveva mai una casa. La città era per lui un'immensa panchina. Ma Roma fu per Corso un luogo in cui afferrare, non importa se illusoriamente, radici antiche e un'appartenenza simbolica. A cosa può anelare di più un poeta che una relazione simbolica? Il symbolon nell'antichità suggellava il patto di ospitalità e protezione che si dava allo straniero. Di sicuro Roma era il luogo in cui volle restare, dove cioè i suoi resti in cenere, in simbolo, permanessero a fianco di quelli del suo amato Shelley nel cimitero dei poeti al Testaccio. E così fu. Alla cerimonia funebre gli amici buttarono di tutto nella tomba, alcol e droghe soprattutto. Sotto le date di nascita, 26 marzo 1930, e di morte, 17 gennaio 2001, sulla lapide è incisa una poesia di Corso. Spirit is life. It flows through the death of me, endlessly, like a river, unafraid of becoming the sea. Lo spirito è vita, attraversa la mia morte all'infinito, come un fiume che non ha paura di diventare mare. Al momento della mia ultima visita, tra gennaio e febbraio, sulla tomba qualcuno aveva fermato con un sasso un foglietto a righe sbrecciato. Non ho potuto fare a meno di leggere la prima e l'ultima frase di questa specie di appello o di ex voto. Extreme love said, which past I have to live, pray the angels to call 334. La tomba è una lastra quadrata accanto a quella di un patriota canadese e appena un po' più giù di quella di Shelley, su cui svetta una rosa fresca e lunga, color rosa. Poco più in là, la tomba di Amelia Rosselli. Poi c'è il Gianicolo, c'è Villa Sciarra, le mie attuali panchine, San Cosimato, la mia piazza. Gennaio. Fino a un paio d'anni fa c'erano le panchine a cui si pensa normalmente quando si dice panchina, sistemate sotto i platani, tra i quali il grande storico platano di San Cosimato. Servivano alle vecchiette per chiacchierare, alle signore per fermarsi lungo il cammino dalla spesa al mercato a casa, alle mamme per guardare i bambini, alle altre donne del quartiere per parlare di sesso, ai polacchi, era il periodo dei polacchi, per bere il vino da cartoni e dormire la notte. C'era un brusio collettivo intenso e familiare, ma mi trovavo benissimo anche a sedermi in solitudine. San Cosimato era una piazza di paese, come Trastevere rispetto ad altri quartieri della capitale. Diversi anni fa, una mattina, i trasteverini trovarono una panchina diversa, sistemata distante dalle altre, sul lato del ristorante Corsetti. Una panchina stonata, grigia, pesante, e un crocchio di persone si formò intorno a quella intrusione di pietra, sedile lungo e stretto e schienale dritto e altissimo. Qualcuno si sedette. Scomodissima. Orribile, concordarono tutti. Un signore più curioso degli altri cominciò a esplorare la panchina grigia in ogni angolo, finché, accovacciandosi, vide una scritta incisa in basso, dietro lo schienale. Gli architetti Tizio Sempronio per Massimo Fagioli. Il guru della psicanalisi Fagioli ha infatti lo studio teatro a San Cosimato. Due pomeriggi la settimana una folla di fagiolini, allora come oggi, attendeva pazientemente e tristemente l'apertura della porta del palazzo ed entrava in fila indiana come al suono della campanella di una scuola. La panchina era opera di due allievi, pazienti, fan. Comunque fosse, quel regalo per Fagioli, imposto alla piazza, non piacque ai trasteverini e tre giorni dopo un camion del comune parcheggiò e ripartì con la panchina grigia sul rimorchio. A pensarci, sembra una profezia. Da poco tempo una ristrutturazione, un abbellimento, ha ricoperto i pavimenti della piazza di grigio e circondato con un inutile muretto grigio lo spazio alberato dove giocano i bambini e dove prima c'erano le panchine verdi sparse qui e là. Ai lati della piazza altre panchine grigie, ma perlomeno larghe di sedile. Per fortuna il mercato, i colori della frutta e della verdura, il traffico dei corpi, la gente, le grida dei bambini che giocano a palla o con lo skateboard, oltre ai colori pastello delle case e alla luce di Roma, hanno finito per distrarci dall'abbellimento. E nella lunga panca marrone, interrotta da braccioli che contorna il muro grigio, continuo a sedermi. Abito a Trastevere alle pendici del Gianicolo e so l'avvicinarsi del pranzo dal colpo di cannone sparato a mezzogiorno dal colle. Sono circondato di scalinate per arrampicarmi sul colle panoramico, ma dalla terrazza sul tetto vedo quasi le stesse cose che dal Gianicolo, quindi non è per i bel vedere che ci vado. È che il Gianicolo è un luogo speciale, dotato di una sua extraterritorialità che si trasmette e fa sentire liberi, beatamente stranieri. Oltre che parchi e panchine, ci sono ambasciate, accademie, università americane, istituti pontifici, conventi, luoghi di studio e di ritiro laici e religiosi, qualche albergo di lusso, scuole, ospedali pediatrici, ex brefotrofi. Sembra che qui la città sia davvero finita o stia per iniziare. Se ci si trova sullo spiazzo più frequentato del Gianicolo, Piazza Garibaldi, tra suoni di giostre, grida di burattini e lo stereo del Copacabana Caffè, un chiosco, che spiccano nel vocio di famiglie con bambini, di innamorati e di turisti, e se si guarda non dalla parte della città, che si estende bianco sporca allo sguardo dalla Farnesina a San Giovanni, facendo emergere cupole di chiese e creste di palazzi di cui ignorate il nome, e la bacheca di plexiglass col disegno della città e le didascalie non aiuta, coperta com'è dal lunto di milioni di dita e altrettanti graffiti. Se si guarda dall'altra parte, quella di Villa Panfili, ebbene, quello che si vede è pura campagna. La città è scomparsa, ricompare più avanti, mentre si avvicinano la cupola di San Pietro e la punta dorata della Chiesa Rossa. Forse la cosa più importante del Gianicolo è il cielo. Non si va sul Gianicolo per vedere Roma, ma per sentirsi a contatto col cielo. E la città quasi a strapiombo, con le panchine in riva. Sembra che sia, a volte, il mare. Quando ci vado, salendo rampe e scale, prima di tutto faccio una sosta su una normale panchina di legno nel cortile del chiostro del Bramante, attiguo alla chiesa di San Pietro in Montorio. Nella chiesa c'è un quadro, nella seconda cappella a sinistra, che a suo modo racchiude la misteriosa bellezza e sacralità del Gianicolo. Lo ha dipinto un discepolo del quattrocentesco Antoniazzo Romano e raffigura Sant'Anna, la Vergine Santissima, e Gesù bambino. A me aiutò a guardarlo in un incontro casuale un gentile signore con la barba, Marcello Beltramme, coltissimo autore di saggi di storia dell'arte. Il segreto del quadro, mi spiegò, è quello dell'Immacolata Concezione, ovvero la Grazia, la madre della Madonna, del cui grembo il resto del quadro è emanazione. Tiene un libro e lo legge assorta. Quel libro, letto da Sant'Anna, è il nodo teologico cruciale. Lei sa per esso i segreti del mondo, la via, le scritture. La Madonna guarda invece davanti a sé, ci guarda con tale serenità e forza interiore che il suo sguardo intenso ci riguarda. Qualunque attrice o top model darebbe inutilmente l'anima per avere quello sguardo, ma non è una posa. Il quadro suggerisce quindi che l'Immacolata Concezione, contrariamente al senso comune, non sarebbe una procreazione senza la sessualità, ma l'immunità radicale, l'esenzione dal peccato originale, il riscatto di Eva, promessa di una salvezza indipendente dalla Chiesa e dal peccato. Confortato da quel quadro, mi sono convinto da tempo che il mio grazioso vagabondare in quel porto franco che è il Gianicolo e salvarmi ogni tanto su una panchina mi metta a contatto con la grazia salvifica per tutti, con la liberazione dalla colpa. Ma c'è una sacralità speciale del Gianicolo. Il richiamo al dio Giano collega una pluralità di miti che rimandano a una religiosità radicale. Giano è il dio delle porte, Janua, porta, da cui gennaio, dei solstizi e degli equinozi, degli inizi e delle iniziazioni, è il dio della nascita, delle soglie, del cammino e dei passaggi, quindi, perché no, delle passeggiate. Una specie di dio buddista, delle porte senza porta, sinonimo di illuminazione. Il suo essere bifronte o gemino, in qualche modo androgino o transessuale, lo rende il dio che dissolve i dualismi. Ci sono molte leggende salvifiche sul Gianicolo, da Ovidio a Virgilio, dal re Anco Marcio al re Numa Pompilio, sepolto lì, da quella di Giano Noè, che dopo il diluvio sarebbe approdato a Ripa Grande, Trastevere, e vissuto sul Gianicolo, al martirio di San Pietro, avvenuto dove sorge la chiesa detta in Montorio, Monte d'Oro. Oltre all'italico eroismo di cui il Gianicolo è sempre stato teatro, da Muzio Scevola a Garibaldi. La passeggiata del Gianicolo l'ho rifatta a Capodanno. Uscendo dalla chiesa di San Pietro in Montorio, ho guardato i pini e le palme che svettano contro il cielo e le nuvole e i turisti che guardavano il panorama di Roma tra lo scroscio d'acqua del Fontanone, la fontana dell'Acqua Paola, e l'ambasciata di Spagna. Dopo qualche passo nel viale del parco di Villa Corsini, che costeggia l'Orto Botanico, sono entrato nella passeggiata del Gianicolo, più affollata del solito. Nello spiazzo erboso, circondato dai busti severi e barbuti dei garibaldini, galleggiavano decine di detriti colorati di petardi esplosi e bottiglie di champagne. Andavo da una panchina all'altra. Ho sorriso alla solita folla, su cui troneggiavano palloni colorati tenuti col filo, in piedi a guardare come un'olografica TV per aria il teatrino dei burattini di Carlo Piantadosi, che sopravvive per le generose offerte del pubblico. Non fatelo morire. Il Copacabana Caffè e il chioschetto erano ugualmente sgargianti, con le loro musiche e gli sgabelli unti. Ho superato Villa Lante, grosso confetto color cappuccino, covo di umanisti finlandesi in seno alla loro ambasciata presso la Santa Sede, e ho contemplato bottiglie lasciate sul muretto panoramico con la scritta «Giulio, ti amo». Di fianco, una giovane coppia, verosimilmente straniera, pranzava sulla panchina, perfettamente apparecchiata, con calici di cristallo e una bottiglia di champagne. All'improvviso tutte le campane della città hanno preso a suonare come un immenso metafisico pascolo di vacche. In prossimità del faro, all'altezza del muretto con su scritto «Voglio morire di te, Pulcina», ho sentito un grido venire dal carcere di Regina Celi, proprio giù di fronte. Ho ricordato le storie dei dialoghi lancinanti tra chi è fuori e chi è dentro, tra le mogli e i mariti. Samuel Beckett, che abitava a Parigi vicino alla prigione, ascoltando grida, così scrisse in finale di partita: «Ho calpestato cocci di vetro e petardi consumati come un campo di battaglia, fino alla terrazza detta anfiteatro che circonda la rampa della Quercia. Mi sono seduto su una panchina a contemplarla, la Quercia del Tasso, naturalmente, quella su cui ironizzò meravigliosamente Achille Campanile, che secondo lui era un tasso, abitato da un tasso, detto il Tasso del Tasso, del Tasso, la Quercia, dicevo, alla cui ombra il poeta, recita la lapide, vicino ai sospirati allori e alla morte ripensava silenzioso le miserie sue tutte. Sembra un'installazione di arte povera, un pezzo morto di tronco sostenuto da una trave di ferro, monumento alla ruggine, alla cenere, alla sopravvivenza, quindi alla poesia. La scritta sul muretto attiguo dice un sopravvivere a portata di tutti, come un SMS. Tanti auguri, amore mio, ti amo troppo. Poi sono arrivato al convento di Sant'Onofrio, dove Torquato Tasso scelse di morire. Un'oasi gestita dai frati francescani dell'Atonement, non so cosa significhi. Seduto su una delle due panchine di pietra, sull'erba di fianco alla fontana zampillante, ho pensato come doveva essere quando lo visitarono commossi Goethe, Chateaubriand, uno dei più bei siti della terra, Leopardi. Quest'ultimo scrisse al fratello di avere pianto visitando il sepolcro del Tasso. È il primo e l'unico piacere che ho provato a Roma, riferendosi anche alla gente che incontrava per via. Aggiunse considerazioni sulla sublime nudità del sepolcro rispetto ai superbissimi mausolei che si osservano con perfetta indifferenza per la persona a cui furono innalzati. Dentro la chiesa, dedicata a Onofrio, santo anacoreta, c'è un dipinto di Antoniazzo Romano, il volto bellissimo di una Madonna che galleggia nel blu, nella posa dell'Annunciazione. Fuori dal cancello, un cartello avverte: zona extraterritoriale. Tommaso Ragno ha letto Panchine di Beppe Sebaste, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad Altavoce Edizione 20 anni è un programma Rai Radio 3.